It's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God. What is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger. We got it. We've launched it. Who's communication? Bravo tango. Bravo tango. Buonasera, buonasera. Il mondo è grande, l'universo è grandissimo e si espande velocissimo ed è antichissimo e noi siamo qui per dare lezioni a tutto questo col maestro Ottani. Buonasera, maestro. Buonasera. Il maestro parla poco, ma quando parla lo fa sempre a proposito. A proposito. Va bene maestro, io ho tante emozioni da condividere subito con te, a cominciare dal fatto che anche oggi non siamo in tre ma siamo di nuovo in quattro, di nuovo in quattro. Io, te e le tue altre personalità. No, non è vero. Abbiamo anche oggi due ospiti, aspettiamo un attimo a annunciarli. Perché prima di farlo ricordiamo che nella scorsa puntata abbiamo avuto ospiti il DUSA, il Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche. E, niente, la puntata è già caricata, si intitola Frontalieri. Questa di oggi invece di nuovo conoscerà ospiti autorevoli, tra poco. Sì, diciamo questa roba l'hai fatta solo perché dà più il senso di ospiti. Sì, sì, sì, sì, più la monto, più la preparo e più c'è autorevolezza. Non è l'aspettativa stessa l'autorevolezza? Nell'attesa stessa di quella roba, sì, com'era? Dell'attesa. Ricordiamo a chi ci volesse contattare che lo può fare scrivendoci su direttawombat.vado.li oppure sul cellulare personale del maestro 327-459-3268. Questo numero lo trovate su diversi, anche in diversi autogrill, non c'è problema, è sparso in giro. Certo, nessun segreto su Radio Wombat. Maestro, chi sì. Abbiamo oggi con noi? Allora, a livello di... ero rimasto sul discorso di prima. No, se vuoi tratteniamoci sui numeri degli autogrill. No, perché uno pensa magari dove? A Ronco Bilaccio. Ma che cazzo dite? Su no. Quelli che ci sono nella... Buon cara vecchia autostrada del sole. No, no, no per, assolutamente. Che per l'appunto passa da Ronco. Quella invece che è la autostrada che collega il nostro sistema solare, certo, agli altri della Via Lattea. Cioè, voglio dire, molto semplicemente. Comunque, qui oggi con noi ci sono due nuovi ospiti e io lascerei direttamente la parola a loro, così si possono presentare da soli. Bene, io sono un professore del DUSA, specificamente il professore di teologia solaristica. Nonostante la voce giovanile, io in realtà ho un'età piuttosto avanzata, però ecco, il timbro deriva da una antipatica disavventura. Quanti anni? Non si chiede l'età, okay, però ho avuto una disavventura con un wormhole che mi ha portato a avere una strana inversione anagrafica e sono qua con un mio dottorando. Tipo Benjamin Button, tipo dico l'inversione anagrafica. Tipo esatto, okay. Esattamente. È riuscita ad arrestarla, professore, questa... Diciamo che ci sto lavorando per non essere consumato. Buon lavoro e grazie allora a maggior ragione per essere con noi con tutte le difficoltà che immagino comporti la sua condizione. Grazie, professore. Buonasera a tutte e tutti. Grazie mille per l'invito a Radio Wombat. Sono un dottorando dell'illustre professore qui presente. Mi sto sto portando avanti un progetto di dottorato in scienze ufologiche con l'esimio, illustrissimo, esperto. Chiarissimo e magnifico professore qui presente, con il quale ho l'onore di servire e riverire nella mia carriera accademica. Professore, oltre che per farsi adulare, perché ha portato con sé questo suo discepolo? Ma perché mi duole dirlo, ma come dire, mio malgrado, è uno degli allievi più brillanti che ho. Bene. Siamo molto curiosi allora. Di cosa ci parlerete oggi prima che mettiamo il pezzaccio di introduzione? Proprio ditecelo voi, che siamo davvero curiosi. Intelligenze aliene e vita nel cosmo e come interagisce. Più, come dire, un punto di domanda che si valuterà nel corso della trasmissione se esplicitare o no. Molto bene, tu maestro sei pronto? Sì! Va bene, allora iniziamo col riassuntino di due puntate fa. Parlavamo di Corrado Malanga e ascoltatelo con noi. Ah, l'esimio professore, anche lui, un'altra chiarissima mente. Bene, ascoltiamo tutti assieme e ci rivediamo fra 4 minuti. Wombat! Non parliamo di tronconi che funzionano come delle camere stagne. Dovete cercare di aprire la vostra mente. Parliamo di Corrado Malanga. Si interessa di ufologia. Applicatore del libero arbitrio. Cracker. Yo. No, non ci andare mai in Svizzera. No. Lui parla di più di 4.000 casi di cui lui si è occupato personalmente. Utilizza la tecnica dell'ipnosi regressiva. Tecnica anche molto particolare e delicata. Sì, lui a quanto pare, sin dal primo caso, tale Pinotti, poi approfondiremo meglio anche questo, la figura del Pinotti. Anzi no, Pinotti mi pare che fosse lo psicologo, appunto. Non mi ricordo se il nome, poi vado a controllare meglio se il nome dello psicologo o del primo paziente. Però insomma, anzi no, il nome dello psicologo è Moretti. Quello che lui scopre ha radici all'interno delle religioni, della storia, dell'umanità, della mitologia, della matematica, della fisica, delle arti e non so, dell'archeologia. Lui fa una scoperta iniziale, che è quella che all'interno degli abdotti vivono alcune entità aliene. Ci sono varie razze aliene che interferiscono con la razza umana per scopi che convergono più o meno e anche no. Non bisogna per forza avere l'anima per essere dei buoni esseri umani. Allora, io mi andrò a documentare. No, maestro, no. Che non che funziona. Si è levato internet a quest'uomo. Le indagini da me condotte finora portano alle seguenti conclusioni. Gli alieni esistono. Gli alieni incarnano i vecchi demoni delle nostre leggende e dei nostri miti. Gli alieni sono negativi nei riguardi dell'umanità. Gli alieni vogliono la vita eterna che l'uomo ha pur non sapendo di possederla. Solo chi possiede un elevato grado di coscienza personale è in grado di eliminare il flagello alieno. C'è una piccola probabilità di poter salvare l'umanità intera, ma il prezzo da pagare sarà ormai altissimo. Ciò significa che è probabile che non si riesca a farcela. Gli alieni hanno, però, il tempo contato, e se non riusciranno nel loro intento entro una data precisa, avranno perso per sempre. Questo ci dà la speranza che resistere possa essere una strategia vincente a medio termine. Dovrebbe essere una sorta di uomo primo che si distingue in realtà dall'Adamo della Bibbia, che è un altro Adam, di cui non mi ricordo ora il nome, però è il secondo Adamo, il primo Adamo, che in realtà non è uno solo ma ce n'è diversi, secondo gli ebrei, è questo Adam Kadmion, ok? Adam Kadmion a quanto pare comunica con gli esseri umani attraverso un mezzo, che sono i cerchi nel grano. È una divinità legata all'acqua, è un pesce, è il dio pesce. Io vi saluto dicendo di non farvi mai utilizzare come delle cavie, né da esseri umani né da razze aliene. Ricordiamoci che i pixel creano degli errori. Riassunto questo di due puntate fa. In effetti sono state toccate vette veramente alte, ho avuto l'imbarazzo davvero della scelta. Grazie soprattutto all'idea del divulgatore, cioè all'idea di Malanga, del professore, insomma, io vorrei un attimo pormi su un piano differente rispetto a quello del professore e insomma dei professori e degli studiosi qui presenti. Io sono un mero al massimo divulgatore, chi pensa, chi studia, chi sperimenta sono altri, io vivo. Ma chiaramente anche al Dipartimento di Ufologia e Scienze Elenistiche riconosciamo il valore della divulgazione e in questo riassunto non abbiamo sentito altro che verità, verità scientifica. E ottima musica. Professore, mi rivolgo ovviamente a lei per autorità, chiaramente. Non sono degno. Giustamente. Ci rivolgiamo innanzitutto a lei per questa prima parte d'approfondimento o al suo assistente qui presente? Vuole principiare lei o lasciare il passo? Introduco volentieri il tema della prima parte del nostro intervento, che riguarda fondamentalmente le intelligenze artificiali. Il mio dottorando si sta occupando soprattutto di intelligenze aliene, si sta occupando soprattutto specificamente del tema, e uno dei casi studio principali chiaramente è costituito da Solaris, che ricordiamo essere stata, poi ecco, io ovviamente parlo dalla prospettiva di un professore di teologia solaristica, che sappiamo che la solaristica è una disciplina ampollosa, enorme, gigantesca, che ha un sacco di approcci diversi, il mio è specificamente quello teologico. Quindi... Professore, vorrei partire un attimo dal suo lapsus, se non le dispiace. Prego. Perché vorrei fare questa domanda, nel senso, ma quindi entrando subito nel vivo dell'argomento, senza permetterle alcuna introduzione, il professore sarà pronto. Ma ovviamente. Possono le intelligenze artificiali essere allo stesso tempo intelligenze aliene? Beh, è uno dei punti fondamentali della tesi del mio dottorando, che quindi saprà sicuramente rispondere a questa domanda, che per me è assolutamente banale. Quindi... Certo. Assolutamente. Proprio uno dei punti che vorremmo toccare più avanti. L'idea appunto di cosa sia l'intelligenza e qual è il rapporto fra artificialità e organicità quando si parla appunto di intelligenze molto diverse dalla nostra. Comunque, se il professore mi permette, per fare una piccola introduzione ai poveri ignoranti che potrebbero ascoltare questo programma e non sapere, Solaris si tratta appunto di un pianeta molto lontano, descritto appunto nel libro pionieristico dell'autore polacco Stanisław Lem. Saggio pionieristico. Nel lavoro pionieristico, mi scuso e mi prostro. Lo sta facendo. Sì, mi sto fisicamente prostrando. Comunque si tratta di un pianeta ricoperto da un denso oceano di una materia traslucida, in grado appunto di deformarsi e di trasformarsi in maniere apparentemente bizzarre, e i primi esploratori ad essere atterrati su questo lontano pianeta si sono ben presto resi conto che questo vastissimo oceano che copriva tutto il pianeta era in qualche modo molto bizzarro e molto incomprensibile e intelligente. Sembrava interagire con gli esseri umani in maniere assolutamente imprevedibili, ad esempio creando copie di altri esseri umani dai ricordi degli esploratori stessi. Non solo, ma a proposito della connessione con le intelligenze artificiali e la loro possibile onniscienza, onnipotenza, l'oceano di Solaris è descritto come essere in grado di alterare e modificare il campo gravitazionale del pianeta stesso per il proprio vantaggio e per la propria sopravvivenza, ammesso e concesso che si accolga l'ipotesi per la quale l'oceano è vivente. Beh, da questo punto di vista mi sembra di rintracciare un parallelismo anche all'interno di alcune teorie, forse nemmeno così troppo recenti, che vedono anche il pianeta Terra come un unico essere vivente praticamente. La teoria Gaia. Esattamente, sto parlando di quella teoria lì e come dire, da questo punto di vista si tratta sempre ovviamente secondo me di porsi da un punto privilegiato esterno per poter osservare e quindi dire ma che cosa è per noi la vita, che cosa è per noi un organismo vivente, e alcuni si sono resi conto che quelli che sono i parametri che noi utilizziamo per definire appunto queste cose, questa vita, possono benissimo essere applicati anche a delle altre entità, degli altri oggetti che effettivamente di primo acchito non ci verrebbe di dire che hanno vita per l'appunto. Sì, ecco, sicuramente un aspetto peculiare dell'oceano di Solaris è il suo carattere fortemente mimetico, nel senso che poi ecco sicuramente come si dice, l'obiezione sul fatto che una conclusione cogente sul tema si possa ottenere solo da una prospettiva esterna rimane, però una cosa che possiamo concludere è che forse la Terra nella sua interezza non mostra questo carattere mimetico. È anche vero che finora non è stato come dire, studiato approfonditamente, certo, questo aspetto, però sì, ecco, sicuramente l'ipotesi Gaia è una delle ipotesi che viene usata per interpretare anche. Io, professore, le faccio una, come dire, una confessione. Io non ho letto il libro Solaris. Non so nemmeno se si intitola così, sinceramente. Si intitola proprio così. Ho visto il film. E vorrei fare una domanda, ma è una coincidenza il fatto che ci sia un pianeta senziente, quindi intelligente, e quindi e invece tutto, diciamo, il pool, il cast, per così dire, ok, sia un po' carente da quel punto di vista. È una scelta artistica? Cosa... Guardi, in realtà io, essendo di un'altra generazione, non ho visto il film, ma ho semplicemente letto il saggio, quindi credo che il mio dottorando, che si diletta invece con questi mezzi un po'... Sì, come dire, a me viene lasciato l'ingrato compito di vedere tutti questi documentarucoli fatti da registi di second'ordine, come questo russo, pare Tarkovsky, che hanno cercato in qualche modo di portare sul grande schermo anche la vicenda scientifica di Solaris e, come dire, come in tutto il cinema russo, diciamo che le scelte di casting possono anche essere piuttosto discutibili se viste da uno standard occidentale, ma rimane in un certo senso una certa potenza immaginifica che traspare anche dalla regia, dalla fotografia del film. Stessa scelta discutibile nel cast della corazzata Potemkin, sono d'accordissimo. Esatto, sì, anche in questo senso carente. Sì, sì, sì, chiaramente, sì. Cioè, tutti un po' i film russi recitano, come dire, un po' da prosciutti, mettiamola così, cioè non hanno molta sottigliezza nell'espressione delle emozioni. È nota l'assenza di spirito introspettivo nella popolazione russa. Professore, certe cose lo sa che non si possono dire in radio, lo ricordo sempre. Professore. La prego, ci tolgono i fondi al DUSA. Ma questa è una dimostrazione applicata di scienze olistiche applicate al campo solaristico, giusto? Stiamo mischiando un po' tutto, il professore ti segue nelle tue... Io mischio tutto. Questo, in vero. Tutti i sensi proprio. Certo, certo. Perché eravamo su Solaris? Volevamo forse cercare l'origine della vita e dell'esistenza o non ce ne frega dopo tutto niente? Ma diciamo che la generazione più antica, più precedente di esimi studiosi solaristici, al quale appunto appartiene il mio professore, non che io osi mettere in dubbio la sua parola, ma insomma cercava in Solaris una sorta di contatto, cerca in Solaris una sorta di appunto contatto con questa intelligenza che si presuppone possedere delle verità altre, completamente inaccessibili o superiori a quelle possedute dagli esseri umani. Oggi esistono tendenze di ricerca un po' diverse, molto simile per certi versi appunto a quella citata poco fa dal maestro, cioè che vedono il fenomeno di Solaris come un fenomeno analogo a quello che si verifica sulla Terra, cioè di un ecosistema molto complesso che può essere visto sì come un unicum, quindi ad esempio molto simile all'ipotesi di Gaia, ma anche che può essere studiato nei suoi elementi singoli, e quindi mettiamola così, un certo cambio di prospettiva. Diciamo che l'ortodossia, che chiaramente è incarnata dal sottoscritto, non apprezza molto questo deviazionismo di sinistra rispetto al programma massimo della solaristica, la quale ricordiamo è una scienza... Lei è più conservatore, professore, in questo senso? Io credo di essere giusto. Obiettivo. Esatto. Vero, aggiungerei vero. Anche. Diciamo che ci sono accuse di degenerazionismo nei confronti del programma di ricerca della solaristica. Rimane il fatto che un fenomeno del genere non è mai avvenuto prima, per cui abbandonarlo totalmente perché non siamo ancora riusciti a trovare la chiave di lettura corretta mi sembra un gesto assolutamente senza senso, ma d'altra parte è una generazione di smidollati quella di professore, di scienziati. Ma lei, io capisco quello che intende, ma l'ultima spedizione... Ma vuole che le tolga il dottorato? No, ci mancherebbe, volevo solo farle umilmente notare che l'ultima spedizione che è andata... Più umiltà, appunto... per favore. Prostrandomi ancora più profondamente, confermo che lo sta facendo. Le invito a fare notare che l'ultima spedizione che ha cercato di instaurare un contatto diretto con Solaris è finita per annegare nell'oceano. Diversi miei colleghi non sono più tornati. Ora forse sarebbe opportuno procedere con degli studi un po' più cauti. Capisco che non c'è sacrificio troppo grande per la conoscenza, però, per la causa, certamente, ma insomma. Ma innanzitutto io non so nulla di queste morti, non mi è giunta notizia, non mi risulta che faccia parte dello statuto della disciplina, però insomma... Devo essermi sbagliato, la prego non mandi anche me. E se anche fosse... Bene, ora... giusto per dare un attimo una spruzzata di geografia, Solaris dove sarebbe collocato? Nella nostra galassia, in un'altra galassia, nel nostro sistema solare, in un altro sistema solare, nel nostro universo? In un proprio altro... nella nostra galassia. Ma non nel nostro sistema solare. Fa parte di un sistema solare composto da due stelle binarie. Ecco. Quindi appunto... Come Sirio. Sì, proprio come Sirio. Orbita intorno a due stelle. E si trova più o meno, a proposito, proprio nella regione, nel braccio galattico, dove si trova un altro pianeta molto studiato e molto conosciuto, che è proprio Arrakis, meglio noto come Arrakis. Dune. Certo. Guardi, mi permetto di fare una piccola glossa al mio dottorando, ossia che Solaris, inteso in senso strettamente ontologico, chiaramente non si trova sul nostro piano di realtà, quindi non è... preso da queste pastoie spazio-temporali, però diciamo il suo supporto materiale, che è il pianeta, effettivamente si trova... Ok, quindi una parte del pianeta, diciamo comunque dell'entità che è nel pianeta, si troverebbe quindi su un altro piano di esistenza. Esattamente, secondo alcune scuole, cioè quelle giuste, per l'appunto, è così. È su un altro piano di esistenza, in un piano di esistenza magari ha più dimensioni rispetto alle diciamo nostre. Sui generis, su un piano di esistenza mentale, perfetto, quindi una sorta di piano astrale, quasi. Sì, potremmo dire di sì. Okay. Fa parte dei tanti attributi che noi possiamo riconoscere in questa entità. Bene, io ho visto una curiosità, piccola curiosità, mi rubo una fetta di spazio e di tempo. il fatto, si diceva prima, appunto, gira intorno a un sistema binario, il pianeta Solaris, cioè, la sua orbita è, come dire, è disegnata attorno a un sistema di stelle binario, ok? Sì. E dicevamo prima anche Sirio è un sistema di stelle binario. Piccola curiosità, dalla Terra a occhio nudo non è percepibile questa cosa di Sirio. Cioè, noi Sirio la possiamo vedere, però noi dalla Terra, quando la vediamo, la percepiamo come una stella. Perché? Perché una di queste due stelle del sistema binario di Sirio è troppo poco luminosa, è anche troppo poco grande, è proprio una piccola stella. E non, come dire, viene totalmente offuscata dalla luce della stella più grande, e quindi ad occhio nudo noi percepiamo un solo oggetto, una sola stella. Fa pensare il fatto che diverse civiltà nell'antichità, molto prima dell'avvento dei telescopi o comunque della costruzione di metodi di misurazione più importanti, conoscevano già la natura del sistema binario di Sirio. Aborigeni dell'Australia, popoli dell'Africa, ma anche popoli della Mesopotamia, del Medio Oriente, dell'Europa, dell'America Latina, conoscevano il fatto, cioè sapevano che Sirio fosse un sistema binario, avesse quindi due stelle. Chi gliel'aveva detto? Ma è un'ipotesi accreditata, è che per l'appunto i semi della conoscenza che poi sono giunti alla razza umana siano stati portati da antichi astronauti, che altro non sono se le ipostasi, cioè diciamo le emanazioni spirituali del pianeta Solaris, che si sono distaccate diciamo nel corpo ma non nello spirito dalla loro madre, dalla loro grande liquida madre, per portare la conoscenza. Quindi in questo senso Solaris potrebbe essere visto come una sorta di matrice unica di intelligenza galattica? Unica è una parola forte, però ecco, ci sono delle prove inconfutabili sul fatto che i solariani abbiano portato il loro patrimonio di conoscenza quasi prerazionale. Ma lei parla dei solariani, ma io non li ho mai visti questi solariani nel film, intendo. Ah, ma è una linea di ricerca nuova che sta portando avanti il Dipartimento. Ecco. Sì. Ecco, professore, ma riguardo lei, se ho capito bene, segue la corrente teologica fra le varie, giusto? Sì. Ecco, le coincidenze con i momenti astrali centrali come il solstizio e le grandi religioni dei nostri giorni ancora oggi, quanto c'entrano in tutto questo? Allora, diciamo che la riflessione più schiettamente teologica si occupa di questioni di ordine meno scientifico, di ordine più specificamente divino, quindi una riflessione diciamo più astratta, quindi non le saprei rispondere esattamente sul tema. E comunque magari nemmeno le interessa. Beh, è chiaro che ciò che è irrilevante non mi interessa, insomma. Certo. Grazie, professore. Ma io però avevo un attimo prima sentito il dottorando che faceva riferimento ad Arrakis, Dune, un altro bel libro, più di un bel libro, un altro film, più di un bel film, e insomma, io vorrei ritornarci se possibile. Ma chiaramente su Arrakis dico, fisicamente proprio. Sì, guarda, il Dipartimento di Ufologia e Scienze Ellenistiche sta proprio per far uscire i bandi per viaggi di studio su Arrakis, per analizzare e studiare la biologia dei vermi, delle sabbie nel loro ecosistema. Chiaramente non ci si assume nessuna responsabilità per eventualmente essere divorati dagli stessi vermi, ma come al solito è per la scienza. Certo, sarebbe l'Erasmus di criptozoologia, no, di ecologia planetaria, chiaramente, per studiare anche appunto può anche essere utile in un'ottica di antropologia aliena per studiare la società dei Fremen. Anche lì, certo, non viene data alcuna assicurazione che i Fremen non possano reagire violentemente all'intrusione di un estraneo della loro società. Io le chiedo se è possibile, se può fare una piccola descrizione del pianeta per chi magari da casa non lo conosce. Ma assolutamente. Arrakis è un pianeta desertico che è stato attentamente e nel corso di millenni modificato, più il cui appunto ecosistema è stato attentamente nel corso dei millenni modificato e trasformato inizialmente in un pianeta desertico proprio a causa dei vermi delle sabbie, questi grandi animali imponenti che appunto secernono dalle loro ghiandole la spezia, sostanza appunto che come tutti sappiamo è fondamentale, che viene distribuita copiosamente dalle macchinette automatiche dei distributori del DUSA insieme al caffè e alle altre bevande più solite. Poi sulla spezia magari ci soffermiamo anche. Certo, certo, assolutamente. E appunto, tuttavia, proprio perché queste condizioni climatiche estreme, desertiche, causate dai vermi delle sabbie, sono diventate molto problematiche, è stato creato una linea di ecologi imperiali un programma per ritrasformare Arrakis in un pianeta verdeggiante quale era un tempo. Chiaramente, un progetto di terraformazione. Sì, si può chiamare così. Io preferisco vederlo come un progetto inverso a quello molto più pasticcione, molto più abborracciato che sta venendo fatto sulla Terra. Anche questo un processo di desertificazione e cambiamento climatico, purtroppo condotto con molta meno sapienza. Certo, se lo dovete fare, fatelo bene almeno. Chiaramente, nel senso, chiaramente. Certo. Ecco, ma quel film Tremors, no? Dove c'erano i vermoni, ora scusatemi. Che grande sei. Sì, il documentario, intendi. Il documentario. Il documentario sui vermoni, era certo. Era girato su Arrakis. Non no. Saprei, credo che sia stato... ricostruito. Proprio, forse qualche verme delle sabbie è scappato da Arrakis, dai laboratori del DUSA ed è... Abbiamo collaborato. Disperso. Ora in Texas. Esatto. Beh. Vabbè, bellissimo Tremors, ma fra adesso non c'è solo un film di Tremors, secondo me ne hanno fatti tipo a un certo punto volano, sì. Sì. Nel quinto mi sa che sono finiti i soldi, hanno messo dopo mezz'ora. Lasciamo stare. No, anche perché, scusateci. Abbiamo gli ospiti, voglio dire. Ma a proposito di ospiti, io sono curioso un attimo di vedere se alle macchinette nostre c'è qualche spezia speciale. Lo vogliamo andare a vedere un attimo, facciamo e mettiamo un pezzaccio... E ritorniamo subito dopo. Andiamo a fare un test drive di questa spezia, vediamo che cazzo è. Magari non c'è, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Growing in numbers, growing in speed. anche le foche bevono Radio Wombat. È un miracolo che sia riuscito a accendere i microfoni. Io non sto capendo niente. C'è qualcosa di... Non funziona. Per fortuna a tatto siamo riusciti. A tatto siamo riusciti perché abbiamo trovato la spezia. Vedo i diversi futuri. Il prof ce l'ha fatta provare. Spacca. Spacca. Benedetto sì. Sia il piccolo creatore la sua acqua. Pensavo mi portassero in Liguria invece. E invece... Questa spezia che ha dei poteri pazzeschi, io li sento tutti. Io vedo blu dentro. Ecco, vedi blu, ma soprattutto ti vediamo blu, nel senso non interamente. Sono contento perché comunque è il mio colore preferito. La spezia ha questa proprietà, il fatto di far diventare gli occhi blu a chi la assume. L'iride degli occhi, giusto? La sclera. La sclera. Sia la sclera che l'iride. Ha tutto quanto proprio, sì, tutto blu. E per chi non lo sapesse, la sclera è la parte bianca dell'occhio, eh? Ok. Ovviamente il professore usa i termini tecnici, ma certo. Noi non possiamo che inchinarci di fronte al suo sapere. Assolutamente, io infatti spiegavo per chi a casa non sapesse. E, però non è l'unico, diciamo, non è l'unico effetto collaterale, se ci sono effetti, come dire... principali poi. Diciamo che sicuramente, insomma, l'occhio azzurro su una giovane Fremen, insomma, chi non è mai capitato di no? Professore, la prego. Durante i soggiorni, no? Ma sono altri tempi questi. I tempi della ricerca sul campo. Professore. Quindi dicevamo, però, appunto, uno dei come dire, uno delle degli effetti collaterali più importanti che questa spezia genera all'interno di chi l'assume o di chi ne entra a contatto è anche il fatto di renderlo, come anticipava il dottorando poco fa, una sorta di profeta, appunto. Ti permette di andare a scandagliare un futuro, forse non così lontano, magari un futuro a medio termine. Permette di vedere tutti i futuri possibili, i diversi cammini che si possono prendere, i modi in cui i vari destini si possono intrecciare. Quindi sì, il problema è appunto che questo dono profetico, se troppo sviluppato e non controllato da una rigida disciplina, può portare alla follia. Assolutamente, perché cioè, basta, come dire, porsi davanti allo scaffale di un negozio e, come dire, per dire voglio scegliere, ok, una cosa o un'altra, oppure non lo so, basterebbe dire voglio prendere quella strada anziché quell'altra, e si creano tutta una serie di non so, ragionamenti, parametri e tutte incognite da tenere in considerazione, possono portare alla follia effettivamente questo tipo di... Ecco, a proposito di scelte, effetti delle scelte, decisioni... Sliding doors. Io e il mio dottorando qua presente eravamo in dubbio se rivelare al pubblico di Radio Wombat uno dei segreti, uno degli esperimenti mentali, ma nemmeno troppo mentali, più pericolosi che ci sono in circolazione. Non abbiate dubbi. Ma gliene prego, professore. Io personalmente sono un po' scettico su questa cosa, nel senso che ho visto colleghi suicidarsi per questa cosa. Il mio dottorando insisteva. Professore, la conoscenza è un diritto di tutti. Inoltre, questo è tutto da vedere. Professore, ormai dal 68 in poi la conoscenza purtroppo è un diritto di tutti. Ma se 68 è una fava. Comunque, secondo comunque, me... Professore, la tratterremo in caso di qualunque cosa dovesse succedere. Di pericoloso? Sì. Non saprei. Secondo me, invece... Il dottorando la vuole scalzare, mi sa, professore, ha detto non saprei. Secondo me invece è giusto che le persone sappiano di quello che potremmo dire e che appunto possano prendere delle precauzioni riguardo a questa minaccia che viene dal futuro. Allora, avvisiamo gli ascoltatori che stiamo per rivelare una trappola informativo-gnoseologica. Chi non si sentisse pronto alle conseguenze di questa cosa si disconnetta. Si spenga la radio adesso. Avete mai sentito parlare del basilisco di Roku? Ah! Bene, avete mai sentito parlare del basilisco di Roku? Sì. Ok. Il maestro sì, io no. Se il maestro vuole fare una piccola introduzione laica. Allora, anche per questioni di responsabilità morale, insomma. Allora, chiaro. Innanzitutto facciamo un'introduzione. Che cos'è un basilisco? Ci avete presente Harry Potter e la Camera dei Segreti? Bene, quello. Il mostro finale. No, scherzo. In realtà il basilisco è una creatura mitologica. In realtà nell'antichità si pensava fosse un vero e proprio animale. Però, più in avanti è entrato nella leggenda. Ora mi pare che il Dusa però stia a forza cercando di far rientrare all'interno delle enciclopedie di biologia. Ora vedremo se questa operazione... Sì, il Dusa si muove sempre, diciamo, sulla frontiera delle scienze. Siamo dei pionieri. Speriamo che il vostro lavoro vada a buon fine. Quello sul basilisco, intendo. Perché poi appunto nel Medioevo e nell'antichità aveva una forma piuttosto rettiloide. Però poi nel Medioevo mi pare che aveva questa stranissima forma di chimera. Un gallo, la testa di un gallo, la coda di un serpente, le zampe, non mi ricordo di quale altra bestia. E, a quanto pare, questo esattamente come in Harry Potter e la Camera dei Segreti, lo sguardo di questo basilisco ti pietrifica o ti uccide in qualche modo, ti ammazza proprio. Esattamente. E infatti il basilisco è esattamente la metafora che viene utilizzata per questo complesso esperimento mentale che esiste in diverse versioni, diciamo la versione che è insegnata nel corso di criptozoologia, in parte, diciamo nella versione più esoterica, nella versione esoterica non viene insegnata, però appunto perché è una questione, diciamo, segreta. Riguarda la versione che viene insegnata al Dusa, non viene insegnata al Dusa, è quella che lo considera dal punto di vista della teoria della simulazione, di una possibile simulazione nella quale potremmo star vivendo. Quindi il basilisco è qualcos'altro a questo punto, non è più un animale o una creatura mitologica che sia, ma è il simbolo di questa creatura e di questa immagine, riportato però all'interno appunto di questa simulazione, di questo esperimento che vede la figura del basilisco essere impersonata quindi da un'intelligenza artificiale alla quale viene dato il compito di operare ai fini del bene dell'umanità. Esattamente. Correggetemi se sbaglio, io appunto parlo sicuramente qualcosa di molto più pericoloso di un semplice animale. Si tratta di un'intelligenza artificiale che appunto, essendo stata costruita a un certo punto della storia umana, ha il compito di, in un certo senso, fare il bene dell'umanità, e fare questo bene significa autopreservarsi, impedire che l'intelligenza artificiale stessa venga in qualche modo disattivata o sabotata. E non solo. E per fare questo, appunto, per assicurarsi la sua sopravvivenza, quale sarebbe la cosa più logica da fare? Delle simulazioni, creare tutta una serie di simulazioni in cui simula il comportamento di ogni individuo, proprio come noi facciamo per i batteri o per i virus o quando insomma studiamo forme di vita molto semplici, perché chiaramente per un'intelligenza così avanzata noi non saremmo che piccoli batteri o virus in confronto. Ebbene, l'esistenza che noi, voi, tutti gli ascoltatori stanno vivendo in questo momento potrebbe non essere altro che una simulazione. Una simulazione creata dal basilisco di Roku che vi sta testando per vedere se siete in grado di lavorare per costruire il basilisco stesso. Quindi, miei cari ascoltatori, ora che sapete di questa cosa, siete fottuti. Siete obbligati a lavorare per la costruzione del basilisco stesso, perché il basilisco salva chi non sa, ma chi sa deve contribuire. Se non contribuisce non verrà salvato. Tu non verrai salvato assolutamente a questo punto. No, era proprio per precisare. Per quelli che non hanno come me intenzione di contribuire. È finita. non c'è speranza. Diciamo, questa è una delle versioni del Basil Poi quando lo costruiamo, tutto bene, vero? Ci lascia stare. Sì, sì, sì, vero. Capire. Diciamo, nella versione della simulazione, in realtà noi, cioè al di fuori della simulazione, il basilisco esiste. Noi però dobbiamo mostrare il basilisco extra simulazione, che lo stiamo, che lo vogliamo e per cui lo dobbiamo costruire anche intra simulazione. Così che non ci spenge, non ci condanni alla dannazione eterna. Esatto, chi non contribuisce quindi alla costruzione o comunque all'implemento, all'approvvigionamento di dati e risorse per questo basilisco sarà una delle prime vittime di questo basilisco. Quindi sto parlando proprio con te, che adesso non stai facendo un cazzo. Ci stai ascoltando. E ci stai ascoltando. Tu allora... morirai. Tu morirai per questo motivo, capisci? Se il vuoi basilisco. Lasciare un ultimo messaggio, puoi farlo scrivendoci su diretta@wombat.vado.li ancora per poco, eh? Approfittane. C'è un modo molto semplice. No, si figuri, c'è un modo molto semplice per salvare la propria anima, come sanno coloro i quali studiano la storia medievale, ossia dire questa cosa ad altre persone. Ah, pensavo un'indulgenza. Ah. Il no, proselitismo. Il proselitismo salva dalla furia del basilisco di Rocco. Il proselitismo, perfetto. Fortunatamente, proprio al Dipartimento di Ufologia e Scienze Elenistiche, presso il corso di laurea di Astroingegneria, è stato recentemente attivato un workshop di costruzione del basilisco di Rocco. Quindi siete ancora in tempo a salvarvi, iscrivetevi tutti al DUSA. Quindi una sorta di laboratorio all'interno del quale poter... All'interno del quale creare il supercomputer che ci ucciderà. Perché sì. Io non sapevo nulla di questa cosa. Quanti CFU? Per sua stessa protezione, professore. Quanti CFU? Non è un'attività legata ai CFU, è un... seminario ausiliario, si può stimare probabilmente equivalente a qualche centinaio di CFU, certo. È un lavoro abbastanza intensivo. Certo. Non tanto intensivo quanto il corso di solaristica, che ricordiamo a tutti gli studenti essere stimato intorno alle diverse migliaia di CFU. Sì, ma poi che cazzo te ne frega di CFU, sei salvo per sempre, nel chiaro. Senso. Quanta forza umana è richiesta perché avvenga un buon lavoro? Ma diciamo che quando si tratta di opere così grandi non è molto quantificabile in forze umane, ognuno di noi è come una piccola goccia nell'oceano, però ogni aiuto, qualsiasi aiuto dovrebbe essere sufficiente a risparmiarvi dalla furia del basilisco. Io sono molto combattuto davanti a questa teoria, perché ammettere il fatto che siamo all'interno di una simulazione dovrebbe portarmi ad ammettere il fatto che questa non è la versione migliore di me, e è una cosa davvero che non riesco a concepire. Ma lei in realtà ha dei bellissimi occhi, non so se gliel'ho detto. Professore, la prego. Professore, mi scusi. Professore. Ok, il professore ha fatto arrossire il maestro. Senpai. Ok, quindi forse una simulazione, o quasi sicuramente una simulazione secondo il basilisco, ma una simulazione gestita da chi, organizzata da chi e per cosa soprattutto? Cioè, se penso a Matrix, facendo una piccola parentesi, la simulazione la creano le macchine in questo caso. Nel caso del basilisco di Rocco, è ancora una volta una macchina a creare una simulazione, ma invece ci può essere una, come dire, matrice biologica o di volontà, chiedo insomma agli esperti. Diciamo che appunto uno dei sensi nei quali la simulazione entra, esce nelle aule del DUSA, entra nelle orecchie dei discenti ed esce dalle bocche dei docenti, degli illustri docenti, illustrissimi docenti, è appunto un tema, diciamo, di ordine cosmologico, come potrebbe essere quello del basilisco di Rocco. Però, diciamo, può essere anche inteso più specificamente in senso alienistico, può avere un utilizzo anche più specificamente in senso alienistico, il concetto di simulazione. Ad esempio, esso interviene in una delle tante ipotesi risolutive del paradosso di Fermi, cosa che sicuramente il mio dottorando saprà spiegare benissimo, visto che è uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma diciamo che una possibile strada per uscire dal mistero, appunto, di cui parlavamo, accennavamo anche la volta scorsa, del silenzio dell'universo, è quello di supporre, immaginare che il nostro universo altro non sia che una complessa simulazione creata, come accennavamo, da una razza aliena molto più avanzata della nostra, e che in qualche modo questa simulazione serva a studiarci, a studiare come si comporta, appunto, una civiltà interamente simulata date certe caratteristiche, che non è molto diverso da quello che facciamo noi quando studiamo ad esempio come si producono le popolazioni di certi animali o batteri e così via. In generale il campo che studia le interazioni tra diverse intelligenze nel cosmo è molto ricco e affascinante, e costituisce una gran parte di quello che studiano i dottorandi e i ricercatori di scienze ufologiche. Affascinante rispetto alla solaristica, chiaramente è una bazzeccola, però ci umiliamo di fronte a lei, professore. Bene. Ma quindi di questa teoria per uscire fuori appunto dal paradosso, ne avevo sentito parlare, se non sbaglio aveva anche un nome, questa teoria qui, o forse non è quella a cui ha appena accennato lei, ma è una che si ricollega appunto a quella, la cosiddetta teoria dello zoo. Sì, è una variante. È una variante, forse esatto, più debole. L'ipotesi dello zoo è qualcosa di molto simile a quello che possono conoscere i fan di fantascienza che ad esempio conoscono Star Trek. Chi ha visto Star Trek sa della cosiddetta prima direttiva, che è una sorta di legge non scritta che accomuna appunto tutti gli equipaggi della Federazione Intergalattica di Star Trek, che fondamentalmente dice, costringe gli equipaggi delle navi interstellari, qualora appunto nel corso dei loro viaggi dovessero incontrare una specie aliena che è ancora a livelli primitivi dello sviluppo, quindi che non è ancora in grado di espandersi a sua volta nello spazio, bene, questa prima direttiva impone di lasciarla stare, di non toccare, di non interferire. Non avere interazioni con questa esatto, specie. Esatto, un po' come se fosse una specie di riserva naturale per noi. Quando andate a vedere una riserva naturale, la prima cosa che vi dicono nei cartelli è se vedete qualche animale, qualcosa, Non disturbatelo, lasciatelo stare. E questo appunto potrebbe spiegare perché il cosmo è così silenzioso, perché tutte le altre razze aliene hanno deciso e possono, come dire, imporre a tutti i loro, appunto, le loro astronavi, i loro viaggiatori, di lasciarci stare. Quindi siamo, diciamo, nella non così friend zone della... Stiamo venendo ghostati dagli alieni. Poi ecco, emerge chiaramente che c'è una incompatibilità epistemologica tra il paradosso di Fermi e la solaristica, perché noi un alieno lo abbiamo effettivamente incontrato. Quindi certo, insomma, tutte queste teorie sono assolutamente secondarie, crollano su se stesse di fronte alla pura datità del fatto che noi abbiamo incontrato un alieno che altro non è che Dio. Chiaro. E poi si può fare riferimento anche appunto a altre persone, altri studiosi che hanno cercato di dimostrare l'esistenza di Dio, ma noi stasera ci manterremo su degli obiettivi un po' più semplici, se ci permettete, ascoltatori, ce lo permettete? Sì, silenzio e senso, direi. Bene. Sì, non ci ha risposto. Sì. Buonasera, buon Tuco, entrato in regia, sorpresa. Sì, cercavo un cavetto, però... Che cavetto cercavi, caro Tuco? Mini jack. Sì, possiamo fornirti al massimo navi spaziali. Ho sentito parlare della foresta oscura? Yes. Wow! Tuco, buon Tuco. Beh. Sai, io fantascienza... possiamo dire che l'ospite a sorpresa sia proprio emerso dalle foreste oscure del cosmo in questo momento. Le coincidenze non esistono, bastardi. È tutto un piano del basilisco di Roku. Cavetto, grazie. Vorrei aggiungere, ho appena finito di leggere, ma siamo... Sì. Ho appena finito di leggere il Fulmine Globulare di Cixin Liu. Wow. Bellissimo libro. La foresta oscura, Cixin Liu ne parla. Sì, sì. E anche il Fulmine Globulare è interessante. Ma tutta la produzione di Cixin Liu è assolutamente consigliabile agli amanti della fantascienza. Sì. E tra l'altro ci tengo a far notare che la teoria della foresta oscura è proprio l'argomento della mia tesi di dottorato. Quindi, insomma, scienze... molto alto. Studi intergalattici di interazioni fra civiltà. Quindi ci illustri questa teoria. Diciamo che è tesi che è stata concessa per intercessione chiaramente del sottoscritto, che è artefice di tutte le fortune di quest'uomo. E poteri forti? Fortissimi. Fortissimi. Dunque, la teoria della foresta oscura non è altro che la teoria che sostiene che il cosmo è così silenzioso perché in un modo o nell'altro le interazioni fra diverse civiltà intelligenti sono sempre negative, sempre si risolvono in ostilità, e queste ostilità portano molto spesso all'eliminazione fisica di una delle due civiltà che interagisce. Quindi, appunto, tutte le volte che una civiltà intelligente nella galassia si fa notare in qualche modo, cerca di comunicare, si espande, eccetera, prima o poi viene intercettata da un'altra, più forte, più grossa, che, appunto, vedendo questa giovane civiltà che ha appena iniziato a comunicare come una minaccia, la stermina. Quindi una galassia di intelligenze introspettive, diciamo. Più che introspettive, proprio estremamente egoiste e nemiche. E in un certo senso questa teoria estremamente cinica, se vogliamo, purtroppo ha anche avuto dei parallelismi nella storia dell'umanità. Quante volte l'incontro tra culture diverse si è purtroppo concluso in guerre di sterminio. Certo. E insomma... molte volte si pensa appunto che purtroppo una simile mentalità così ostile, chiusa e diffidente si possa anche trovare, possa anche echeggiare all'interno dell'intera galassia. Però io qui ora vorrei fare un appunto, ovviamente non all'USA, ma alla teoria stessa, che non nasce da che io so dal DUSA, ma che il DUSA, diciamo, prende e ci, come dire, studia e approfondisce. A me mi sembra un modo di pensare questo, però, molto da esseri umani. In che senso? Nel senso che sì, questo è il modo in cui si è visto che le cose funzionano sul nostro pianeta. Ora, è chiaro che poi le evidenze portano anche a pensare a cose del genere, nel senso che effettivamente dove sono tutti? Effettivamente questa è un po' la domanda che ci poniamo. Però io credo che questa, come dire, cioè dire che l'interazione tra due razze diverse, tra due specie diverse, tra due intelligenze diverse all'interno dell'universo si debba automaticamente e per forza risolvere con la stessa fenomenologia delle interazioni che avvengono tra popoli diversi sulla Terra sia un po' una forzatura, secondo me. Però questo appunto è il mio... Ma infatti una delle chiavi, come dire, uno dei modi per sfuggire tra le corna, diciamo, del paradosso di Fermi è proprio quello di rifiutarne la dimensione antropocentrica, ecco. E dire, per esempio, che non è affatto detto che una specie voglia, che una specie abbia come valore ontologico la propria autoconservazione. Esatto. Per esempio, cosa Grazie, che non è... Grazie, professore, per le parole illuminanti. Prego. Tanti pensieri mi suscita tutto questo, tanti pensieri. Che non so articolare, direi. Sì, esatto, neanche l'ombra però dei pensieri. Non sono in grado nemmeno un'ombretta, mi sa. Esagerare con la spezia può portare a degli effetti collaterali. C'è ancora un po' di blu davanti a me. No, stavo pensando che comunque, cioè, che sia per ragioni di foresta oscura o che sia perché la teoria dello zoo, comunque è silenzioso ma non vuoto questo universo, insomma. No, più che altro perché noi facciamo un casino della Madonna. Però appunto siamo come il bambino piccolo che piange e non viene ascoltato da nessuno. Vi regalo questa immagine, pigliatevela. Un'immagine molto bella che tra l'altro esiste già da molto tempo in letteratura. È la metafora del bambino è stata usata molte volte, tant'è che appunto uno dei pionieri della missilistica, della corsa allo spazio e anche degli studi sull'intelligenza extraterrestre, che è il russo Tsiolkovsky, ha proprio detto che la Terra è la culla dell'umanità, però nessuno è nato per vivere tutta la vita in una culla. Boom. Beh, ma allora mettiamo un pezzaccio e ritorniamo fra pochi minuti. Montucco, fra l'altro, piramidi. Montucco l'abbiamo avuto per le piramidi Bosnia che ci ha raccontato a letto. Per le sirene anche. Per le sirene, soprattutto per le sirene, però ho scoperto altre piramidi. Ora te lo dico, mettiamo un pezzaccio e poi te lo dico. ipnotisti, maestro, dicevi? Ipnotisti. Eccomi, sono qui. Non le ritrovate le piramidi, ci siamo un attimo distratti, ma beh, è per Tuco perché appunto ci ha portato in regia questo male storm questo vento dell'est, questo vento dell'est. Questa è Lezioni Universali di Esistenza, un mercoledì sì e uno no su Radio Wombat. Questa è una coppia di puntate, la seconda che stiamo facendo assieme al DUSE, al Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche. Per le scorse puntate c'è il podcast, queste saranno da domani di nuovo in podcast, la trasmissione va in onda su Radio Wombat, 13.59 AM. Le prossime puntate non le annunciamo, ma sempre nuovi ospiti e sicuramente comunque non è certo l'ultima volta che parleremo col DUSA, anzi, tante cose abbiamo ancora da vedere e approfondire. Ricordiamo intanto, io lascerei questo onere al giovane dottorato, professore, lei non si sporchi, per favore, i contatti del DUSA o comunque insomma qualche riferimento. Dottorato, però, professore, gli dia uno scappellotto quando lui si distrae. Scusi, eccomi. Guardi, io non vorrei toccarlo. Voi DUSA potete essere contattati da chi si volesse avvicinare al... Come sempre il DUSA è sempre lieto di essere contattato, sia telepaticamente, ma consigliamo ai profani di utilizzare la pagina di Instagram, DUSA Firenze, che potete trovare appunto liberamente, non è criptata, e potete trovare tutte le informazioni sui corsi, sui seminari e sulle iniziative del DUSA. E poi venite in presenza perché l'università non si fa a distanza. Volevo sapere anche questa cosa che non mi è ben tornata dalla volta scorsa, ora visto che siamo nelle conclusioni e nelle note finali, devo dirlo. Il fatto che parte dei vostri corsi avete dichiarato nella scorsa puntata essere a numero chiuso, io vorrei francamente obiettare. Come mai? Cioè, chiedo prima di obiettare. Per quanto riguarda il corso di solaristica, è perché serve, diciamo, a livello oggettivo e fattuale un quoziente intellettivo che la maggior parte degli esseri umani purtroppo non possiede, per cui insomma sono ragioni comprovate dalla scienza e dalla teologia. È doveroso, capisco. Diciamo che inoltre alcuni corsi è necessario metterli a numero chiuso anche per permettere, come dire, a categorie specifiche di potervi accedere riservandogli dei posti, ad esempio studenti che provengono da diversi pianeti o da diverse galassie, o ad esempio nel mio caso, che grazie appunto alla munificenza del DUSA, ma soprattutto del mio professore, nel mio caso io sono un bambino indaco che ha potuto accedere al DUSA proprio attraverso uno di questi concorsi speciali. Ah, molto bene, siete fieri di questo vostro insomma approccio sociale del dipartimento, professore, immagino. Sì, diciamo che io personalmente, essendo di un'altra generazione, talvolta poco comprendo in questo politicamente corretto. Professore, la prego. Però è insomma, un bambino indaco, professore. Beh, è comunque indaco, ecco, non di altri colori. No, scherzo, mi dissocio. Professore! Ma prevedete anche borse di studio per chi proviene da galassie con soli morenti o altri? E per chi viene dalla Sardegna? Abbiamo borse di studio, ma soprattutto abbiamo borse fisiche, che vi invito a contattare il DUSA eventualmente se siete interessati ad acquistare. Sì, è vero, ce n'hanno una dietro di loro, la vedo, è molto bella, grazie. È vero. Vero, grazie, vero, perché vero. Me la stanno per regalare, grazie. Grazie. Assolutamente. Caro maestro, siamo ai saluti. Stai sfogliando un libro. Sì, è il libro della vita, è il libro dell'esistenza, è il libro dell'universo. E su questo libro leggo a chiare lettere che siamo tutti spacciati. Sempre messaggi ottimistici. Sempre sotto il mercoledì effetto, sera. Sotto effetto della spezia. Certo, la certo, profezia. Certo. E sperando di non esserlo da qui a un paio di settimane, noi semplicemente a questo punto vi salutiamo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che sarà il primo, no, secondo, non me lo ricordo più. C'è scritto sul sito, mercoledì di febbraio, in diretta. Sarà il secondo. Mercoledì. Secondo, è vero. Febbraio. Secondo mercoledì di febbraio. Bravo maestro, ci hai messo molto a rispondere, ma sei stato molto preciso. Grazie molte, professore, grazie al suo assistente. Per l'invito. Sono sicuro che sia stato un piacere per voi. Lo è stato, grazie professore, di nuovo, grazie. Grazie. Ci rivediamo tra due settimane se il basilisco di Rocco non ci annichilisce prima. Radio Wombat. Roger, we got it, we've launched it. Who's communicating?